Smart Mobility, pillole di ecomobilità intelligente. Buon pomeriggio a tutti, eccoci qua di nuovo con le nostre pillole di ecomobilità con Gringo. Sono Irene Papotti di Radio Città Fujiko e ho come sempre il piacere e l'onore di condividere qualche chiacchiera con Federico Angeli di Gringo. Ciao Federico. Ciao Irene, piacere tutto mio. Allora Federico, adesso affrontiamo un discorso un po' spinoso, lo diciamo senza veli, il tema soldi, il tema economico, no? Siamo in un momento in cui parlare di risparmio, di investimenti, insomma è un tema che va trattato con intelligenza, come la mobilità, muoversi con intelligenza, no? Quindi ti faccio una domanda un po' provocatoria. Allora, io sono una ragazza giovane che magari ha interesse ad investire in un tipo di mobilità sostenibile ed ecosostenibile, ma magari ho un problema legato appunto al pagare, no? Quindi se devo scegliere magari tra spostarmi in autobus oppure scegliere di andare a prendermi un monopattino, magari devo fare dei calcoli di un certo tipo. Okay. Quindi io mi chiedo, come fai tu, cioè convincimi, come convinci diciamo delle persone che avrebbero magari l'interesse ad avere un approccio differente nell'ambito della mobilità, ma che hanno un problema, sono frenate un pochino dal fattore economico. Come le facciamo a convincere che è un investimento che vale la pena di fare? Però domanda interessante. Allora cerchiamo di capire. La soluzione potrebbe semplicemente essere quella che poi, voglio dire, noi non dobbiamo convincere nessuno, però giustamente, cioè ragioniamo a voce alta su questo tema importante. Se tu oggi decidi di muoverti col trasporto pubblico, perché chiaramente diventa un in termini di gestione della spesa, chiaramente l'onere minore, ok? Sicuramente sei una persona estremamente attenta anche alle piccole cifre, no? Del tuo bilancio quotidiano. La soluzione non è certo quello di acquistare un mezzo di ecomobilità sostenibile, perché chiaramente io ti dovrei chiedere di investire del capitale, togliendotelo dalla tua liquidità quotidiana, e accantonarlo sull'acquisto. Sicuramente il noleggio è la formula intelligente per te. Noleggio che può essere per il tempo reale che lo utilizzi, tieni conto che il noleggio più lo fai lungo meno ti costa, chiaramente, quindi il noleggio di un monopattino, di una e-bike, chiaramente tu lo puoi fare orario, quindi diventa un po' il tuo autobus, cioè lo uso per andare da A a B e pago solo il tempo in cui vado da A a B. La differenza però rispetto all'autobus, che sicuramente costerà di più, però quel poco di più che tu vai a spendere è poi rappresentato da una maggior libertà tua, cioè nel senso che ovviamente non sei soggetta agli orari dell'autobus, agli orari, ma soprattutto l'autobus, se c'è via Mazzini o via Emilia intasata, cosa fa l'autobus? Si ferma. Cosa fai tu con le bike, col monopattino? Brava. Quindi vedi che alla fine il pagare qualcosina di più, perché ovviamente è normale che sia così, però lo vai a bilanciare, e quindi hai come un valore aggiunto, insomma, una maggior flessibilità e libertà e risparmio, esatto, di tempo. Esatto, l'altra cosa che volevo dire, mi inserisco in questo, il termine della flessibilità che mi è venuto in mente nel momento in cui tu hai accennato alle fasce orarie. Credo che non tutti siamo veramente consapevoli di quanto, a partire proprio da voi di Gringo, ci sia una flessibilità, cioè proprio una volontà di andare verso la necessità della persona, che forse si fa fatica a concepire. Cioè, perché se io penso per esempio alla bicicletta a Nolo oppure a altri mezzi che si noleggiano, penso per esempio alla Riviera Romagnola, in cui io vado dal tizio sulla riviera che mi dice: senti, se la vuoi noleggiare devi prenderla per giorni. Cioè non sono molto flessibili, hanno un modo un po' vecchio stile, no, di pensare, mentre tu mi parli di fasce orarie addirittura. Beh, cioè sì, quindi noi... proprio c'è proprio un'idea un po' futuristica, difficile da concepire. Esatto, e bello ovviamente. Esatto. Tra l'altro quindi mi fai pensare al fatto che quindi rispetto a un trasporto di tipo pubblico come può essere quello dell'autobus, esiste un sistema che si avvicina molto a quello dell'abbonamento, con il surplus, che in realtà è meno impersonale, perché io mi interfaccio direttamente con una persona come te, Federico. Cioè un consulente di mobilità. Che è un consulente, che non è semplicemente il tizio anonimo che si trova dentro e che ti fa il biglietto. O che quello ti cuce, che ti vende il risciò al mare. Esatto. Che ti cuce addosso proprio la cosa, e per cui ti senti anche proprio coccolato. Quindi in realtà lo diciamo perché la domanda partiva dal, diciamo, dal vantaggio economico, lo svantaggio economico. Non è che si paga di più, allora vuol dire che è semplicemente una sorta di atteggiamento un po' così avanguardistico, per dire io faccio ecomobilità, no? Esatto. Però c'è proprio una, come dire, l'investimento anche sul rapporto che va al di là del servizio. È proprio un rapporto personale, e io lo confermo perché con Federico ormai stiamo avendo a che fare da un po' di tempo, e quindi posso confermare che c'è un calore che va al di là della questione. Grazie, del Irene. Business. Quindi, ti vogliamo bene. Grazie, anche noi vi vogliamo bene. E come al solito noi arriviamo alla fine della nostra pillola, e vi ricordiamo che Federico e il suo calore, e anche Leonardo, vi aspettano sempre per una chiacchierata, per una chiacchierata anche solamente conoscitiva, di curiosità, in Via Bellaria, dove c'è il bellissimo negozio verde, che è ovviamente verde, non poteva essere di altri colori, che è Gringo. Esatto. E noi vi salutiamo e vi ringraziamo per l'ascolto. Ciao a tutti.